Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Perché le donne si dia per scontato che devono guadagnare di meno degli uomini? No, lo stesso diritto è una forma di maschilismo che sempre vuole dominare la donna. E facciamo la brutta figura che ha fatto Adamo quando Dio ha detto: ma perché hai mangiato la frutta? E lei me l'ha dato, è la colpa della donna. Povera donna. Comodo, no, Adamo che dice colpa della donna, l'ho mangiata via dal paradiso per colpa sua, ha detto Papa Francesco. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ma noi ci soffermeremo oggi in particolare sulla politica, perché sapete che il governo ha ottenuto la prima fiducia delle tre che saranno votate sull'Italicum. Questo ha ulteriormente frammentato, spaccato il PD, ne parleremo, e poi ci sarà anche Rosi Bindi, che è tra i 38, diciamo così, dissidenti del Partito Democratico che non hanno votato la fiducia. Le vostre opinioni su questo tema al 349-238-6666 per i messaggi, gli sms 349-238-6666 o come sempre comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, se volete, sulla priorità o meno di questa legge elettorale. Molti stanno criticando, diciamo quelli naturalmente detrattori dell'Italicum, il fatto che si sia data così fretta all'approvazione di questa legge, no? Renzi è uno che ha fretta dall'inizio, l'abbiamo visto su cose, alcune cose un po' meno, però secondo voi è effettivamente una priorità? Si sta accelerando così perché è giusto accelerare in questo modo su una riforma come questa, oppure non era così importante? È secondo voi una priorità? Effetto Notte, pagina Facebook per le vostre opinioni, oppure sms al 349-238-6666. Torneremo naturalmente anche sull'ecatombe, tante emergenze in Nepal. Poi ci sarà anche uno spazio sull'Expo, e in particolare oggi sulla sicurezza, perché sapete che c'è stato un nuovo blitz contro i No Expo, sono state trovate mazze chiodate, maschere antigas, insomma c'è un po' di tensione anche su questo aspetto per quanto riguarda l'esposizione universale di Milano, che sapete parte tra due giorni, venerdì 1 maggio. Poi ci sarà anche un pochino di calcio, perché sembra che la vendita del Milan sia lì proprio sull'unghia praticamente. Ma prima di tutto questo, mentre voi scrivete le vostre opinioni, vi racconto la giornata. L'Italicum, la Camera dal via libera alla prima fiducia, 38 PD non votano, la minoranza è spaccata, Effetto Notte, Rosi Bindi. Nepal, tornano i primi italiani, ora ne mancano 5 all'appello, polemiche sui soccorsi, proteste e scontri, la capitale Kathmandu si è sollevata di un metro. Conto alla rovescia per l'Expo, nuovo blitz contro gli antagonisti, in campo 2600 agenti in più, Renzi assicura siamo pronti. Stati Uniti, 63enne senatore democratico Bernie Sanders sfiderà Hillary Clinton nelle primarie democratiche, l'annuncio ufficiale arriva domani. Xylella, il ministro Martina annuncia uno stanziamento di 11 milioni di euro a sostegno di interventi compensativi per i produttori che abbiano subito danni. Il Papa sulle donne, l'avete sentito, è uno scandalo, dice che guadagnino meno degli uomini a parità di mansioni. Sentenza della Corte Europea, i giudici di Strasburgo ammettono l'esclusione permanente dalla donazione di sangue per gli uomini gay, ma occorre dimostrare la malattia. Spazio, la navicella russa Progress fuori controllo, cadrà sulla Terra, inevitabile l'impatto con l'atmosfera, rottami potrebbero cadere sulla Terra tra il 7 e l'11 maggio. E per il calcio, per la 33esima di Serie A in campo anche Milan e Juventus, per i rossoneri tra l'altro una giornata importante per il passaggio di proprietà. Partiamo quindi dalla politica e da questa prima fiducia ottenuta dal governo sull'Italicum. Alta tensione alla Camera e minoranza PD spaccata. Nessuna espulsione, nessun no nel PD, ma 38 defezioni. La prima fiducia all'Italicum passa con numeri sicuri per il governo, 352 sì, 207 no e un astenuto. Grazie di cuore ai deputati che hanno votato la prima fiducia, la strada è ancora lunga, ma questa è la volta buona, twitta subito dopo il premier Matteo Renzi. La rottura nel partito però è evidente, ben 38 deputati della corrente di area riformista non partecipano al voto, tra i quali l'ex segretario per Luigi Bersani, ma dalla maggioranza di partito assicura curano, non ci sarà nessuna espulsione. Lorenzo Guerini. Mi pare che insomma, i voti di fiducia siano molto alti, perché sicuramente si è contenuto anche lo strappo dentro il Partito Democratico. Noi non espelliamo mai nessuno, ci confronteremo politicamente nei prossimi giorni, c'è da lavorare e in questo momento lavoreremo. Il voto però sancisce anche che c'è una spaccatura all'interno della stessa minoranza. 50 deputati di area riformista votano la fiducia malgrado non siano d'accordo sull'Italicum. La ditta è cambiata, spiega Pierluigi Bersani, mentre Gianni Cooper lo avverte. È difficile immaginare che lo strappo non abbia delle ripercussioni anche sui termini politici della legislatura e forse anche sui tempi. Domani le altre due fiducie sugli altri due articoli della legge elettorale. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Alle opposizioni non riesce la spallata al governo. Il Movimento 5 Stelle, che aveva invitato la minoranza del PD a votare no alla fiducia per mandare a casa Renzi, ora non esclude l'ipotesi del referendum per abrogare l'Italicum. Dopo i crisantemi lanciati in aula ieri, invece, i deputati di SEL per protesta oggi hanno votato con il lutto al braccio. Critica anche Forza Italia, così Gelmini. Una legge elettorale votata a colpi di fiducia con una forma di intimidazione nei confronti della minoranza del PD è una legge che nasce zoppa ed è una legge che sarà comunque debole proprio perché votata da pochi. Nella maggioranza invece qualche mal di pancia c'è stato anche nel gruppo di Area Popolare Nuovo Centrodestra. Tre i deputati che non hanno partecipato al voto, tra di loro anche l'ex capogruppo De Girolamo, che ha contestato Renzi per il ricorso alla fiducia. Le regole del gioco si scrivono, si modificano anche e si votano insieme. Non accetto né abusi né forzature che non hanno precedenti e che possono costituire un precedente molto pericoloso per la democrazia parlamentare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Può costituire secondo voi un precedente pericoloso nella vita parlamentare questa fiducia posta da Renzi? E soprattutto è una priorità l'approvazione della riforma della legge elettorale, quindi la riforma della legge elettorale è in cima, diciamo, alle cose più importanti? 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Poi naturalmente il Nepal, a 4 giorni dal devastante terremoto, continua a aumentare il numero delle vittime. Oggi si parla di oltre 5.300, 8.000 feriti, però abbiamo detto che dalle autorità nepalesi si dice che si temono almeno 10.000 morti. Per gli sfollati che hanno bisogno di assistenza è iniziato il grande esodo. Intanto gli italiani che mancano all'appello scendono a 5. Cibo e acqua che scarseggiano, il terrore di nuove scosse e delle epidemie scatenate da condizioni igieniche pessime. Più di 100.000 persone hanno deciso di lasciare Kathmandu e altre 300.000 potrebbero farlo nelle prossime ore. I soccorsi tardano ad arrivare, 200 persone hanno bloccato il traffico in segno di protesta, in migliaia hanno preso d'assalto le stazioni degli autobus per fuggire verso i villaggi. 8 milioni di persone, secondo l'ONG, hanno bisogno di assistenza, servono 500.000 tende per i senza tetto, ora ce ne sono solo 4.700. Stanno lasciando la capitale anche i primi italiani, dice la Farnesina. Sono già tornati a casa ieri Paolo Ceretto e Alessandro Bernard, che sabato a Kathmandu stavano girando un documentario. Si sono salvati perché in quel momento si trovavano sulla collina nel centro della città. Noi eravamo nel posto giusto al momento giusto, non abbiamo avuto la possibilità di vedere che da sotto stava capitando qualcosa di grosso. Davanti a noi c'è appunto questa stupa, Wayan Bunat, e da lì anche è arrivato il fumo, da lì comincia a vedere le prime volti che escono fuori da questo fumo, insomma, pieni di sangue. Questi i loro racconti. I nepalesi ci hanno aiutato moltissimo, hanno detto. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto si apprende che la capitale Kathmandu si è sollevata di un metro per effetto del terremoto di magnitudo 7,8 del 25 aprile. Questa è la prima misura ottenuta dallo spazio in base ai dati del satellite europeo Sentinel-1A. E adesso parliamo invece dell'Expo. Dopodomani, vi dicevo, inizia l'Expo 2015 a Milano. Quella di oggi è stata una giornata di controlli con nuove perquisizioni, nuovi indagati. Poi ne parleremo tra poco. E vi ricordo che domani Effetto Notte dura un'ora in più, quindi sino alle 23, perché una buona parte la dedicherò appunto all'Expo. E poi il del 1° maggio Radio 24 naturalmente racconterà gli eventi principali. In vista proprio del 1° maggio, della festa dei lavoratori, l'avete sentito, il Papa ha parlato oggi in difesa dei salari delle donne. Sostenere con decisione il diritto all'uguale retribuzione per uguale lavoro. Perché le donne si dia per scontato che devono guadagnare di meno degli uomini? No, lo stesso diritto. La disparità è un puro scandalo. È un puro scandalo. Ora occupiamoci di Europa e immigrazione. L'Europarlamento ha approvato oggi a Strasburgo e a larghissima maggioranza la risoluzione congiunta sulla politica migratoria dell'Unione Europea. Tra gli elementi e decisioni principali, quote nazionali per l'accoglienza dei profughi e più mezzi per Frontex. La risposta del Consiglio Europeo alla tragedia umana. Parla alla plenaria di Strasburgo il presidente della Commissione Juncker, parla di migranti, di naufragi e di responsabilità, mentre attorno svolazzano cartelli di europarlamentari con la scritta «Je suis migrant». Il ne fut pas normal que d'avoir laissé au seul soin de l'Italie le financement. Lasciare sola l'Italia nella gestione di questa emergenza è stato anormale, ha detto Juncker prendendo la parola, un discorso che ha centrato tante mancanze da parte della politica europea e ha rilanciato. È necessario che la nuova strategia dell'Europa sull'immigrazione preveda un meccanismo di quote che vada al di là della volontarietà. L'Europa deve fare la sua parte con azioni di solidarietà condivisa. Bisogna aprire flussi per agire sull'immigrazione in regola. Ma non solo. Il presidente della Commissione ha parlato di un grave errore, quello di interrompere Mare Nostrum. Un errore che ha provocato gravi perdite di vite umane. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il riflettore oggi anche sulla decisione della Corte di Giustizia Europea sui gay e le donazioni di sangue. In Francia, dal 1983, gli uomini omosessuali non possono donare il sangue. Ma dopo essere stato respinto da un ospedale, un donatore gay si è rivolto al tribunale locale. La questione è arrivata a Strasburgo e la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione alla legge francese. Strasburgo ha giustificato l'esclusione dalla donazione di sangue di uomini che abbiano avuto rapporti omosessuali alla luce della situazione in Francia. Situazione che vede, secondo gli ultimi dati consultati dalla Corte, gli uomini omosessuali 200 volte più colpiti dall'HIV rispetto alle persone eterosessuali. Saranno necessarie però nuove verifiche su dati recenti per provare che il rischio AIDS per gli omosessuali è più alto. Ad aprile l'Assemblea nazionale aveva votato all'unanimità un emendamento per aprire ai gay la possibilità di donare il sangue e fare in modo che la Francia si allineasse a paesi come Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Russia e Messico, dove il divieto non c'è. Ma la sentenza europea permetterà a molti ospedali ora di continuare a giustificare l'esclusione. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Scusiamoci, negli Stati Uniti, dove la presidenza Obama è alle prese nelle ultime ore con la violenza e le violenze che ci sono a Baltimora. Non è un caso isolato. Così Barack Obama, pur condannando le violenze che si sono scatenate a Baltimora dopo i funerali di Freddie Gray, il giovane afroamericano morto ad una settimana dal suo arresto, in un'intervista radiofonica al popolare The Steve Harvey Morning Show ribadisce: troppe morti sono ormai legate all'azione della polizia. La soluzione sta in un impegno di tutti, dell'intera società. E comunque i dipartimenti, spiega Obama, devono creare più fiducia nelle minoranze rendendo conto del loro operato con più trasparenza. Sull'argomento non si ritrae e nemmeno Hillary Clinton, già in campagna elettorale per le presidenziali. In un discorso alla Columbia University di New York ha usato parole chiare. Gli Stati Uniti devono fare i conti con la verità di un sistema di giustizia penale squilibrato dove c'è anche un problema di discriminazione razziale. Serve una riforma. La Clinton vorrebbe una telecamera su ogni poliziotto, la cosiddetta body camera, per registrare le interazioni con la comunità ed evitare abusi. Inoltre vorrebbe mettere fine all'era dell'incarcerazione di massa. Nel frattempo, come annunciato dal neo ministro Loretta Lynch, il Dipartimento di Giustizia ha confermato di aver aperto ufficialmente un'inchiesta sui fatti che hanno portato alla morte di Freddie Gray. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, un annuncio oggi informale che sarà ufficiale poi domani. Bernie Sanders, 73enne del Partito Democratico, ha deciso di sfidare Hillary Clinton nelle primarie democratiche. Vi dicevo, l'annuncio ufficiale ci sarà domani. Invece, per tornare di nuovo sulle notizie italiane, la xylella, per intervenire sul batterio killer degli ulivi, il governo ha attuato per la prima volta la deroga alla possibilità di accedere al fondo di solidarietà nazionale e stanziamo, così ha detto il ministro Martina, 11 milioni di euro a sostegno di interventi compensativi per i produttori con danni. C'è questa navicella fuori controllo, la navicella russa Progress, che è uscita dall'orbita, è fallito l'ultimo tentativo di riprendere i comandi, ha iniziato Progress la discesa incontrollata verso la terra, inevitabile l'impatto con l'atmosfera, rottami potrebbero cadere sulla terra tra il 7 e l'11 maggio. E per chiudere, il nostro Dario Ricci, come una scheggia, caro Dario. Speriamo insomma che questi detriti non cadano sui campi di calcio, almeno pensiamo sui campi di calcio, sui campi di calcio, né sulla nostra Expo, speriamo proprio di no. Senti, a proposito degli aggiornamenti, perché stasera campionato, direi, allora sicuramente festa scudetto rinviata per la Juventus, perché sarebbe stato necessario che la Lazio non avesse superato il Parma. Ebbene, siamo alla mezz'ora di gioco, Lazio già in vantaggio 3-0, 1-0 sul Parma all'Olimpico con i gol di Parolo, Close e Candreva, quindi ben difficilmente gli emiliani riusciranno nella rimonta. Juventus che invece è ancora ferma sullo 0-0 con la Fiorentina, bene anche la Roma che è in vantaggio per 2-0 a Reggio Emilia sul Sassuolo, le reti di Dumbia e Florenzi, 0-0 il Milan col Genoa, Genoa almeno un paio di occasioni vicino al gol. Mi segnala qualcosa Giuseppe Cruciani. Che dice? Rigore per la Fiorentina, rigore per la Fiorentina. Intanto guarda, intanto ti dico gli altri risultati, poi se abbiamo un istante di tempo arriviamo anche a raccontarti il rigore. Beh, se intanto non vi bevete una birra e fatevi sbocce, eh? No, ma sai che Cruciani è appassionato di calcio, è il mio alter ego anche in effetto notte. Allora siamo sullo 0-0 in Milan-Genoa. Il Genoa ha avuto comunque due occasioni in una serata così particolare per il Milan, perché sai che contemporaneamente ad Arcore c'è l'incontro in cui probabilmente Silvio Berlusconi deciderà di cedere la società dopo 29 anni al magnate thailandese B. Teochew, quindi incontro in corso ad Arcore, incontro in corso anche a San Siro, siamo sullo 0-0. In vantaggio per 2-1 il Palermo sul Torino, mentre 1-0 il vantaggio del Chievo sul Cagliari e 0-0 è invece la sfida tra Cesena e Atalanta, ma tutto pronto a Torino per il calcio di rigore della Fiorentina, il gol, il vantaggio della Fiorentina sulla Juventus. Sì, sulla Juventus per 1-0. Bene, ci aggiorniamo dopo. Grazie Dario Ricci. Adesso è tempo di aggiornare invece chi viaggia. Però qualche vostro messaggio dalla pagina Facebook di Effetto Notte e gli SMS al 349-238-6666. Davide che scrive: la legge elettorale era da fare anche se ci sono cose più urgenti, però già che c'erano potevano farla bene, dice. Un altro ascoltatore o ascoltatrice: è da 1000 anni che discutono di questa cavolo di legge elettorale, hanno rotto i cosiddetti Forza Renzi. Daniele da Ferrara: non mi è simpatico Renzi e voto PD, ma se cade lui c'è la palude. Un altro ascoltatore che si firma Tacito: ora si capisce perché Renzi ha portato Mattarella al Quirinale, non batte mai ciglio, gli permette di fare tutto ciò che vuole. I vostri messaggi continuate con gli SMS al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche tranquillamente. È o non è una priorità la riforma della legge elettorale? A dopo. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Perché le donne si dia per scontato che devono guadagnare di meno degli uomini? No, lo stesso diritto. È una forma di maschilismo che sempre vuol dominare la donna. E facciamo la brutta figura che ha fatto Adamo quando Dio ha detto: ma perché hai mangiato la frutta? E lei me l'ha dato. È la colpa della donna. Povera donna. Ora non so se è colpa della Fiorentina che la Juventus ha fatto un gol, quindi sono pari. Ci siamo aggiornati pochi istanti fa con il gol della Fiorentina su rigore e adesso la Juventus ha fatto un gol a sua volta, quindi sono 1-1 pari. E poi ci aggiorniamo più tardi con il campionato di Serie A, le varie partite che sono in corso. Vi aggiorno anche sui vostri messaggi, sia al 349-238-6666 che sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Un ascoltatore ha scritto 3000 volte: Renzi deve andare a casa, siamo sintetici, una volta basta. E poi Marco dice: assolutamente no, non è una priorità. Mentre Marilena dice sì, dopo l'incostituzionalità del Porcellum, sebbene parziale. Ora vi ricordo le notizie più importanti. Qualcuno dice: ma perché sempre queste notizie? Perché non tutti accendono purtroppo la radio allo stesso momento. Accendetela alle 21 e quando sarete tutti i milioni in ascolto di Effetto Notte alle 21 io potrò fare a meno di ricordarle. Adesso le ricordo. Prima fiducia ottenuta sull'Italicum, si spacca la minoranza PD, Renzi dice facciamo il nostro dovere, intanto Bersani e Cupero dice non lasciamo in ogni caso. Tornano i primi italiani dal Nepal, polemiche sui soccorsi, proteste e scontri a Kathmandu, un neonato estratto vivo pensate dopo 82 ore. Banca Italia dice che il quantitative easing lanciato dalla Banca Centrale Europea spinge l'economia ma cala la fiducia tonfo dei mercati dopo l'abbassamento del PIL degli Stati Uniti. E poi il nuovo blitz contro i No Expo, in campo 2600 agenti in più, racconto alla rovescia verso l'apertura, che sarà appunto venerdì 1 maggio. Renzi dice: siamo pronti. Il Papa: è uno scandalo, dice che le donne guadagnino meno degli uomini. E poi la CEI chiede di ascoltare il grido dei precari: senza lavoro non c'è dignità. La Corte di Giustizia, la Corte dei Diritti Umani Europea dice no alle donazioni di sangue per i gay, quindi giustificata, dice, l'esclusione da parte della Francia, ma da provare il rischio di malattie nei rapporti che possono avere questi uomini. Berlusconi vede Mr. B sul tavolo, il futuro del Milan. E adesso sì, direi che con le notizie ci fermiamo qui. Quindi concentriamoci adesso sulla riforma elettorale, sull'Italicum, che non solo ha visto contrapposti governo e opposizione in questi giorni, insomma da diverso tempo, ma ha anche prodotto, come sapete, dei forti conflitti all'interno del partito di maggioranza, il PD. Ieri vi ho fatto sentire le sonore proteste alla Camera, appena la ministra Boschi ha cominciato ad annunciare la decisione di Renzi di porre la fiducia sulla legge elettorale. Poi oggi c'è stata la prima fiducia, si è votata, si sono palesate le profonde spaccature all'interno del Partito Democratico. Cosa è successo? Oggi l'Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sul primo articolo della legge elettorale, con 352 sì, 207 no e un astenuto. La ministra Boschi si è detta soddisfatta, ha detto: questo è solo il primo passo. Renzi ha twittato immancabilmente su Twitter, ha detto: grazie di cuore ai deputati che hanno votato la prima fiducia, la strada è ancora lunga ma questa è la volta buona. E poi c'è aria riformista, quella che farebbe capo a Roberto Speranza, che si è spaccata perché 50 deputati del PD dell'area riformista hanno firmato un documento in cui annunciano la loro decisione di votare sì all'Italicum, dicono per una questione di responsabilità politica, pur considerando la fiducia posta dal Premier un errore. E poi, quanti sono i deputati nel conteggio finale, i deputati PD che non hanno votato la fiducia? Sono 38 e tra questi c'è anche Rosi Bindi, che saluto. Buonasera, onorevole Bindi. Buonasera. Deputata PD, presidente della Commissione parlamentare antimafia, ex presidente del PD, perché lei è in mezzo a questi 38? Che cos'è che non la convince della legge elettorale dell'Italicum? Della legge elettorale non mi convincono molti aspetti, le liste bloccate, ma soprattutto non mi convince l'impostazione che attraverso il premio alla lista e una soglia di sbarramento molto bassa finisce per favorire un unico partito, quello di maggioranza relativa, che diventa di maggioranza assoluta e sarà circondato da tante piccole opposizioni, nessuna delle quali in grado di competere, veramente controllare l'azione del governo. E quindi è un ritorno indietro, un ritorno al passato, a prima del Mattarellum. In questi 20 anni non siamo riusciti a costruire un sistema bipolare europeo, soprattutto per troppi contrasti dovuti alle impostazioni berlusconiane e anche alla forte opposizione che noi abbiamo fatto. Ma certo potevamo in questa occasione mettere in sicurezza la democrazia competitiva dell'alternanza, invece abbiamo scelto la legge elettorale del partito unico, e questo per me è molto grave. E poi soprattutto non ho risposto alla chiama della fiducia, perché ritengo molto grave che il governo abbia messo la fiducia sulla legge elettorale. A questo proposito, onorevole Bindi, le faccio sentire ieri che cosa aveva detto Renzi a proposito dello strumento appunto della fiducia. Perché con la fiducia, se il governo passa, va avanti; se la legge non viene approvata, il governo va a casa. Cosa c'è di più democratico di chi rischia per le proprie idee? Questo è il tempo del coraggio, questo è il governo del coraggio, non il governo che rimane aggrappato alla poltrona pur di conservare una seggiola. Noi dobbiamo cambiare l'Italia, non dobbiamo preservare noi stessi, e quindi sì, era assolutamente necessario mettere la fiducia, il Parlamento deciderà. Quindi ne ha fatto una questione di coraggio, quindi chi non ha votato non aveva coraggio, onorevole Bindi? In realtà mettere la fiducia per ottenere l'approvazione di un provvedimento è una prova di grande debolezza da parte del governo, non è una prova di coraggio, è una prepotenza che nasconde debolezza, che nasconde paura. E poi soprattutto è un atto di forza improprio, perché io do atto a questo governo di aver dato impulso al processo riformatore, ma la legge elettorale non è legge del governo, è legge del Parlamento. Approvare una legge elettorale con una maggioranza inferiore a quella che sostiene il governo, con tutte le opposizioni fortemente critiche, con una spaccatura all'interno del principale partito che sostiene il governo, significa fare una violenza al Parlamento e significa creare un precedente molto grave nella vita della nostra Repubblica, perché di fatto non ci sono precedenti nella storia repubblicana. Qualcuno fa riferimento alla cosiddetta legge truffa sulla quale De Gasperi mise la fiducia, ma in quella circostanza il Presidente della Camera dichiarò che era talmente improprio quell'atto che non avrebbe potuto costituire precedente. Quindi il primo vero precedente lo abbiamo creato noi e mi dispiace molto che questo sia avvenuto ad opera del Partito Democratico. Onorevole Bindi, le faccio sentire invece adesso il Presidente Orfini, che dice che in realtà si sono fatte discussioni, c'è stato il confronto, si è modificata a seconda delle richieste della minoranza. Sentiamo cosa dice. Però un partito è una comunità di persone in cui alcune decisioni poi si prendono collegialmente e collettivamente. Noi questa legge elettorale l'abbiamo discussa, cambiata, modificata, votata in mille occasioni e arriva il momento in cui un partito è tale se decide. Ho provato a evitare la fiducia per giorni, nel momento in cui è stata inevitabile, però è una procedura forte ma assolutamente legittima che serve a evitare il fallimento del percorso delle riforme. Questo ha detto Orfini, insomma, che è stata discussa la legge, però vorrei anche farle sentire Civati, che ha detto che questo a questo punto è un punto di non ritorno. È un punto di non ritorno sicuramente dentro il PD, perché si forma una minoranza finalmente definita. Dopodiché i motivi per cui non partecipano al voto le persone sono molto diversi. Per me la questione è molto radicale ormai. In questi giorni ne parleremo, ne discuteremo anche con altri colleghi. Tanto è durata tanto, no? Finora questa discussione, settimana prossima si conclude con una decisione che sarà irreversibile. Anche secondo lei, onorevole Bindi, come dice Civati, si è creata una minoranza definita, quindi le cose sono più chiare a questo punto sul da farsi? Certamente. Chi dentro, chi fuori? Sì, il gesto di oggi è un gesto molto forte, molto chiaro, non solo per il numero consistente, circa 40 parlamentari, ma anche perché tra questi parlamentari ci sono ex segretari, ex presidenti del Consiglio, capigruppo, presidenti di partito, candidati alle primarie, quindi sono voti che si contano e si pesano in queste circostanze. È un atto di grande chiarezza ai quali noi siamo stati costretti, perché non è assolutamente vero che questa legge elettorale è stata davvero discussa e condivisa. Si è voluto fare un atto di forza. Adesso io penso che si sia creata una situazione nella quale ci possiamo parlare, ci possiamo confrontare con molta più forza e con molta chiarezza. Onorevole Bindi, però in chiusura, da qualche indiscrezione viene fuori, si dice che lei è in procinto di lasciare il PD e di andare con Maurizio Landini e il suo movimento, il leader della FIOM, è vero? No, assolutamente no, a parte che Maurizio Landini non sta facendo un partito, ha creato un movimento sociale al quale io naturalmente guardo con interesse, perché dal Parlamento si deve guardare con interesse tutto ciò che accade nella società, soprattutto se si avviene nella nostra metà campo. Io sono rigorosamente ancorata al partito che ho fondato, credo che oggi dentro questo partito sia rispuntato il progetto dell'Ulivo, e lavoro perché non avvenga quella mutazione genetica che è in atto di un PD, partito rigorosamente di centro-sinistra e pluralista, che invece va verso il partito della nazione, che riproduce al suo interno il consociativismo degli interessi e blocca la democrazia italiana. Le elezioni sono Io più vicine? Per questo. Onorevole Bindi, le elezioni secondo lei sono più vicine? Ma guardi, qualcuno lo dice e forse non ha torto, perché non c'era proprio la fretta di avere una legge elettorale prima, tra l'altro, che si siano completate le riforme della Costituzione. Quindi è un'arma che Renzi vuol tenersi in mano per avere le mani libere, chiaramente, e anche da questo punto di vista non è stata una buona cosa quella che si è consumata in questi giorni. Chiarissima, la ringrazio, onorevole Rosi Bindi. Grazie a lei. Grazie, buona serata. Buonasera. Grazie. Ah, intanto vedo che Genoa 1-0 sul Milan. 1-0 sul Milan, una serata particolare, difficile per il Milan. E poi anche la Juve, che adesso è a 2-1 sulla Fiorentina. Questi aggiornamenti, ma aggiorniamoci invece sulla politica con Stefano Cappellini, caporedattore centrale del Messaggero. Ciao Stefano. Buonasera. Hai ascoltato l'onorevole Bindi? Sì. Senti, una domanda che poi non sono riuscito a fare tra le varie cose, ma perché non hanno votato contro i 38 invece di non votare la fiducia? Non hanno votato no? Ma insomma, la motivazione ufficiale che hanno dato è ovviamente che hanno voluto evitare di arrivare a un strappo anche simbolico così forte, che significava insomma mettere pesantemente in discussione l'esistenza di questo governo, metterla formalmente in discussione, perché votare la fiducia quello avrebbe significato. Però finché si continua ad abbaiare, diciamo così, in termini, no? Certo, ma infatti stavo appunto per dire che però insomma questa posizione non è facilmente spiegabile alla luce anche degli allarmi che sono stati lanciati nei giorni scorsi a proposito di una democrazia in pericolo, perché se davvero la democrazia è in pericolo, allora diciamo che un voto di fiducia, voto contro la fiducia al governo sarebbe stato legittimo e coerente con questi allarmi, quindi credo che da questo punto di vista la posizione della minoranza PD sia difficile da capire per l'opinione pubblica. Senti, ma quindi secondo te è tutta una battaglia interna al PD, una questione di lotte di potere, come dice qualcuno, come dicono i detrattori insomma della minoranza? Beh, insomma, l'elemento della lotta di potere è assolutamente preponderante in questa vicenda. Cioè, credo che sia chiaro a tutti, anche che, insomma, chi ha seguito meno attentamente il dibattito sui tecnicismi della legge elettorale, e lo scontro di cordate all'interno del PD rappresenta, diciamo, l'elemento determinante di questa contesa. Del resto è evidente che la scelta di mettere la fiducia è stata presa proprio per un problema tutto interno al PD. Credo che sia questo un unicum assoluto, insomma, nella storia degli scontri, dei dibattiti e dei voti sulle riforme elettorali. Se il problema non arrivava da alcun partito, ovviamente ci sono partiti favorevoli e contrari, insomma, fuori dal PD, ma è evidente che la scelta della fiducia nasce tutta da problemi interni al Partito Democratico. Perché le argomentazioni di chi non vota la fiducia o di chi è contrario all'interno del PD, a come formulato l'Italicum, non ti convincono fino in fondo, quindi il rischio che sia tutto in mano a un partito che abbia una maggioranza magari anche risicata, le liste bloccate. No, io penso che alcune contestazioni che vengono fatte all'Italicum siano assolutamente fondate. La prima di tutte è quella che riguarda il premio di maggioranza. Io credo che ci sarà un motivo se l'Italia è l'unico paese tra quelli principali europei che prevede un premio di maggioranza, negli altri non c'è. In Inghilterra, in Germania, in Francia, in Spagna non esiste il premio di maggioranza, esistono dei sistemi, ciascuno ha il suo, che cercano chiaramente di favorire un esito del voto, ma non lo impongono attraverso un premio di maggioranza, tanto che la Merkel, pur vincendo recentemente in Germania le elezioni con un trionfale 41%, ha dovuto fare un governo di coalizione con i socialdemocratici, governo di coalizione che peraltro c'è anche in Inghilterra, e non credo che questi siano paesi incivili o instabili, e sono paesi dove il premio di maggioranza non esiste, quindi insomma ci sono delle contestazioni sicuramente fondate sull'Italia, come l'altra ovviamente è quella che sottolinea come una larga parte dei parlamentari continueranno a essere nominati anziché eletti direttamente. Detto questo, non è vero che, diciamo, l'Italicum, secondo me non è vero che l'Italicum è fatto solo per favorire un partito. La verità è che questo commento nasce dall'osservazione della situazione attuale, cioè è del tutto evidente che in questo momento, con quella legge elettorale, ovviamente Renzi vince e stravince senza alcun problema, ma il fatto che manchi una forte alternativa di destra c'entra nulla con la riforma elettorale o con le alchimie appunto delle leggi elettorali, è semplicemente una situazione in cui si trova in questo momento il nostro paese, una situazione non buona per la democrazia, perché quando manca una delle due gambe su cui si dovrebbe reggere un sistema bipolare, in questo caso il centrodestra, questo non è mai sintomo di buona salute per un sistema democratico. Stefano Cappellini, per chiudere, hai sentito Rosy Bindi diceva chi dice che le elezioni sono più vicine non ha torto, tu cosa pensi in breve? Non lo so, guarda, da questo punto di vista è chiaro che per Renzi avere una legge elettorale definita, votata al Parlamento, significa avere, diciamo, a disposizione la possibilità del ritorno alle urne senza più nessun tipo di obiezione. Io non credo però che a Renzi convenga in questo momento tornare al voto in tempi rapidissimi. Penso che l'idea di Renzi sia comunque quella di provare a sfruttare almeno un altro anno di governo, a vedere se la ripresa economica potrà portare dei frutti e tornare al voto quando il bilancio del suo governo avrà, diciamo, più possibilità di essere presentato in modo positivo all'elettorato. Quindi sull'idea, insomma, che Renzi abbia già un piano di ritorno immediato alle urne, ecco, su questo sarei prudente quantomeno. E restiamo prudenti allora per il momento. Grazie Stefano Cappellini. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Ci sono molti vostri messaggi, ma è tempo di prenderci un po' di ricreazione. A tra poco. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia? Su con Sustemion Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci, Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi che arrivano sulla pagina Facebook di Effetto Notte, gli sms al 349-238-6666 a proposito della legge elettorale di cui abbiamo appena parlato anche con Rosy Bindi. E c'è Salvatore, dice: gli ex della Casa della Libertà, dopo aver votato ed imposto il Porcellum, devono avere il pudore di tacere, la legge elettorale è comunque una priorità, in ogni caso non si riuscirebbe mai a mettere tutti d'accordo. Poi Paolo da Urbino: è giusto fare in fretta, si deve fare, il non votare una vigliaccheria. Emilia dice: certo che no, che non è una priorità. Floriano dice: non è una priorità, ma quante volte abbiamo detto che l'Italia è ingovernabile, che i governi durano poco eccetera, allora ben venga una legge che permetta la governabilità per tutta la legislatura. Ma andiamo sulle notizie principali. A parte l'Italicum, che oggi ha ottenuto la prima fiducia alla Camera, 38 PD non hanno votato, la minoranza spaccata, abbiamo sentito Rosy Bindi su questo. Il Nepal, tornano i primi italiani, ora ne mancano 5, polemiche su soccorsi, proteste e scontri, conto alla rovescia per l'Expo, nuovo blitz contro gli antagonisti. Negli Stati Uniti il 73enne senatore democratico Bernie Sanders domani ufficializzerà la sua sfida nelle primarie democratiche con Hillary Clinton. A Xylella il ministro Martina annuncia uno stanziamento di 11 milioni di euro a sostegno di interventi compensativi per i produttori che abbiano subito danni dal batterio killer. Il Papa sulle donne: uno scandalo, dice che guadagnino meno degli uomini a parità di mansioni. Sentenza della Corte Europea: i giudici di Strasburgo ammettono l'esclusione permanente dalla donazione di sangue per uomini gay, ma occorre dimostrare il rischio di malattia. E poi per il calcio, per la 33esima di Serie A in campo anche Milan e Juventus. Sapete che poi per il Milan è una serata particolare, si vedono Berlusconi e Mr. B. Ma adesso siamo sul Nepal. C'è, avete sentito di quante vittime si parla, oltre 5.000, ma che si temono i 10.000 morti. C'è l'appello dell'ONU, delle Nazioni Unite, che hanno lanciato oggi questa richiesta per almeno 415 milioni di dollari in aiuti al Nepal, servono dopo il devastante terremoto di sabato. L'ONU ha sottolineato l'urgente necessità di fornire riparo, acqua, cibo, cure mediche alla popolazione colpita dal sisma, ricordando che ci sono milioni di persone che hanno bisogno soprattutto di alimenti e beni di prima necessità. E dice il funzionario dell'ONU in Nepal, la rapidità dell'intervento resta essenziale. Serviranno, specifica, almeno 3 mesi per fornire un primo sollievo e poi inizierà il processo di recupero e di ricostruzione. Poi c'è anche l'UNICEF che lancia un appello: serve circa 50 milioni e più di dollari per portare assistenza umanitaria ai bambini. Si parla di più di 1 milione di bambini, quasi 2 milioni, delle loro famiglie che devono affrontare il rischio crescente anche di epidemie. Insomma, appelli che arrivano dalle ONG, organizzazioni non governative, dalle varie internazionali come SOS Villaggi dei Bambini Italia, ONG del Network Agire, di cui è portavoce Elena Cranchi. Buonasera Cranchi. Buonasera. Quindi un po' la richiesta inevitabile anche di soldi, no? di finanziamenti, perché senza quelli non si può aiutare un paese che è stato completamente inginocchiato dal terremoto. No, assolutamente c'è bisogno di fondi. Ringraziamo Agire, noi siamo una delle 7 organizzazioni che hanno aderito all'appello, perché Agire permette davvero di non duplicare gli sforzi e soprattutto di ridurre la competitività in un momento in cui è necessario solo agire, e come ha detto lei prima, in modo tempestivo. C'è un numero, un SMS solidale che è il 45591, penso che le immagini e le notizie siano davvero sufficienti, no, per trovare la spinta a mandare un SMS o ad aiutare. In questo momento, tra l'altro, il InterSOS si sta occupando della gestione di un cargo aereo che è stato messo a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri. Non abbiamo ancora notizie, perché a Kathmandu in aeroporto c'è davvero un momento di grande confusione e quindi per il momento non è ancora arrivato. Noi come SOS Villaggi dei Bambini siamo in Nepal dal 1900 170 e ci occupiamo attraverso 7 villaggi SOS di bambini privi di cure familiari a rischio di perderle e di famiglie in difficoltà. E abbiamo agito perché noi siamo appunto, non ci sono volontari espatriati, siamo lì da tanti anni e ci sono nepalesi che portano avanti le attività dell'associazione. E noi quindi abbiamo dovuto allestire immediatamente dei campi di primo soccorso perché 3 villaggi SOS tra l'altro erano nella zona dell'epicentro, quindi abbiamo potuto dare davvero i primi aiuti alla comunità che ha perso in un secondo tutto. Abbiamo allestito quindi 2 campi, abbiamo dato delle tende perché manca il riparo, ma mancano soprattutto i beni di prima necessità, manca cibo, acqua. In questo momento, oggi ci è arrivata notizia, ci sono dei team SOS che si stanno spostando nel Nepal. Il Nepal è una terra anche molto difficile, ci sono delle aree che difficilmente si possono raggiungere se tra l'altro non si conoscono, e siamo arrivati in una zona dove il 90% delle case non c'era più, quindi abbiamo dato soccorso alla comunità, abbiamo già predisposto di costruire 300 case per 1000 famiglie in difficoltà e abbiamo dato il via a quello che è la nostra modalità di intervento per i bambini, per metterli in protezione, che sono l'apertura di spazi per i bambini, si chiamano spazi a misura bambino, li abbiamo già tra virgolette collaudati nelle Filippine e in Siria. Quindi Elena Caranchi, un gran mole di lavoro che state facendo, e ripetiamo il numero a cui si possono mandare gli sms, un 4-5. Un sms più sms, fare una donazione, andare sul sito di Agire, andare sul sito delle organizzazioni che aderiscono per vedere che cosa stanno facendo, il 45591. Quindi 45591, allora buon lavoro intanto Elena Caranchi. Grazie mille, arrivederci. Grazie. C'è la viabilità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Continuano ad arrivare i vostri messaggi, ma vi dico in sintesi le notizie perché abbiamo poco tempo. Prima fiducia sull'Italicum, oggi si spacca la minoranza PD, abbiamo sentito Rosi Bindi della minoranza, e Renzi dice facciamo il nostro dovere, andiamo avanti. Tornano i primi italiani dal Nepal, abbiamo parlato anche dei soccorsi, e però anche delle proteste e scontri che ci sono a Kathmandu, e poi il Papa che dice che è uno scandalo che le donne guadagnino meno degli uomini, e poi sentiremo gli aggiornamenti invece sulla Serie A. Europa 24 notte. Parliamo dell'Europa e dell'Expo 2015. Conto la rovescia per l'inaugurazione dell'Expo a Milano. Anche l'Europa partecipa con un proprio padiglione, oltre 200 gli eventi previsti e uno spazio espositivo il cui filo conduttore sono il grano e il pane. Sentiamo Matteo Pedersoli, curatore della Visitor Experience del padiglione europeo, al microfono di Alessandra Schepisi. Filo conduttore del padiglione è quello del pane o del grano come DNA della civilizzazione e civiltà europea. Quindi in effetti noi andiamo a vedere qual è il denominatore comune sulla tavola dei paesi europei, ce ne sono 19 su 28 degli stati membri dell'Unione Europea che partecipano all'Expo, quello è il pane o il grano, perché tutti i paesi comunque hanno prodotto specialità o fa parte appunto anche della cultura gastronomica, specialità a base di pane. Quindi ci sarà proprio un concorso anche su questo? Sì, il presidente del titolo del concorso è la Stiga d'Oro, e stiamo lavorando su questo con il professor Acchetti dell'Università Cattolica di Milano, che ha creato questo movimento, questa conferenza che fa tutti gli anni a Brescia, che si intitola La civiltà del pane, e insieme abbiamo prodotto la ricetta del pane di Alex e Silvia, che sono i nostri personaggi principali del film multimediale, nonché cortometraggio. Alex è l'agricoltore, che ovviamente fra le varie cose coltiva anche grano, e Silvia è la ricercatrice. E praticamente quello che succede per quanto riguarda il concorso è che il 9 maggio al padiglione verrà dato il premio della Stiga d'Oro, e ci sono panificatori di tutta Italia che partecipano. Il pane che devono realizzare è il pane di Alex e Silvia, che è un pane honey wheat, cioè fatto con miele e con grano. Chiaramente la scelta del miele è dovuta al fatto che il miele veniva utilizzato in Europa fino al 1492, la scoperta dell'America, e non c'era lo zucchero in Europa, e quindi il miele, l'utilizzo del miele anche col pane è una cosa storica comunque dal punto di vista europeo, direi millenaria ovviamente. Quindi verrà premiato il pane più buono? Verrà premiato il pane che si attiene maggiormente a quella che è la ricetta che è stata depositata con la Federazione Panificatori Italiani. La bontà sicuramente sì, verrà premiato quello più buono in assoluto. Dal punto di vista scientifico chiaramente l'idea è che il pane che Alex e Silvia producono sia un vero e proprio pane del XXI secolo, cioè un pane che, dove si rispettano tutte le norme igieniche di panificazione nel momento in cui si va a panificare e così dicendo. Però alla fine poi il gusto è quello che prevale, ovviamente. L'idea veramente è che noi utilizziamo il pane anche come paradigma di quello che è successo in Europa negli ultimi 70 anni, cioè di come si è passati dalla scarsità. Io mi ricordo per esempio che i miei nonni mi raccontavano sempre che appena alla fine della seconda guerra mondiale loro andavano letteralmente per comprare una pagnotta di pane c'era bisogno di un sacco di soldi a causa dell'iperinflazione e tutto quello che sappiamo molto bene, no? Quindi siccome siamo passati dalla scarsità all'abbondanza e adesso stiamo cercando di evitare l'eccesso e lo spreco e veleggiare verso un futuro di sostenibilità. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E siamo su Expo, che non è soltanto naturalmente il cibo, lo spreco, i padiglioni, i grandi eventi, ma è anche una questione di sicurezza. Ne parliamo con Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Oggi sono stati nuovi blitz contro i No Expo e poi Alfano dice la sicurezza funziona, in arrivo rinforzi per l'inaugurazione, in campo ci dovrebbe essere 2600 agenti in più. Sì, queste sono le notizie diciamo appunto che arrivano da Roma. Vista da Milano, quella che si vede è di sicuro che una crescente tensione intorno a questi giorni di manifestazione. Gli antagonisti le hanno ribattezzate le 5 giornate di Milano, sono cominciate oggi appunto sono scesi in piazza per una manifestazione che in realtà è nata con un altro spirito, ma che è inserita in questa clima appunto di contestazione all'esposizione internazionale. Questa mattina appunto, come ricordavi, ci sono stati nuovi blitz al Giambellino, che è la stessa area che era stata perquisita il giorno prima, e un'area appunto nota dove ci sono alcune case occupate da persone che gravitano nell'area anarchica, e all'arrivo della Digos sono state lanciate da alcune di queste case delle borse piene di maschere antigas, mazze ferrate, materiale insomma che potrebbe far male, e all'interno di una di queste case sono stati trovati gli stessi 3 tedeschi per i quali il giorno prima la Digos aveva chiesto l'espulsione dall'Italia, che invece è stata negata da un giudice. Stavolta però con più materiale probabilmente diciamo lo stesso giudice potrebbe prendere un provvedimento diverso. Provvedimento di espulsione, ma solo tra 10 giorni, anche per 15 francesi che sono stati identificati sempre in queste perquisizioni. Si tratta cioè di attività di sicurezza preventiva per cercare cioè di capire e di intercettare eventuali gruppi violenti che possano convergere su Milano, soprattutto in vista della manifestazione del 1° maggio in coincidenza con l'inaugurazione appunto dell'Expo. Si tratta di persone per lo più, queste ritenute più pericolose sono quelle provenienti dai paesi stranieri, ma è tutto l'antagonismo anche italiano che sta convergendo su Milano. Si calcola che arriveranno più o meno 30.000 persone, e il rischio è che appunto al di là delle ragioni politiche che la rete Attitudine No Expo, organizzatrice della manifestazione, vuole portare in piazza, ci possano essere gruppi diciamo come che erano stati definiti ai tempi del G8 di Genova, Black Bloc, ed è proprio questo fantasma, quello del 2001, che aleggia in questi giorni appunto su Milano, col rischio che ci possano essere devastazioni e violenze come avvenne appunto nel G8, anche se il questore torna a ricordare sempre che si tratta di un evento completamente diverso rispetto a quello del G8. Ci auguriamo che ci sia un altro controllo e anche non quegli scontri e gli antagonisti Black Bloc che dicevi tu, Raffaella Calandra. Intanto ti ringrazio. Ciao Raffaella, ciao. Dobbiamo aggiornare, adesso vedo Dario Ricci qui presente che scalpita guardando le partite, esultando. Per chi stai esultando? Non si può dire, lo sappiamo tutti. Sono apartitico, apolitico, juventino. Quindi la Juventus conduce 2-1 sulla Fiorentina. 2-1 sulla Fiorentina in rimonta dopo la rete di Gonzalo Rodriguez sul calcio di rigore del primo tempo. È arrivato il pareggio di Llorente su una punizione che però, colpo di testa di Llorente su punizione di Pirlo che però non c'è. Era, bisogna ammetterlo, e poi il 2-1 segnato da Tevez, questo sì, regolarissimo. Tevez capocannoniere con 19 gol. Direi che è la serata anche del, oltre che delle romane, perché la Lazio è nettamente in vantaggio 3-0 sul Parma e quindi rinvierà la festa scudetto juventina. A questo punto per la Juventus basta il pareggio sabato pomeriggio contro la Sampdoria a Marassi, e non ci saranno i tifosi bianconeri perché la trasferta è stata vietata come sì, conseguenza del derby della Mole. Bravissima, no? Bravissima, preparatissima. Certo. Bene anche la Roma che è in vantaggio 2-0 a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, quindi capitoline che si giocano questo posto in Champions. Ma è la serata del Milan ed è un'altra serata nera, più che rossonera, perché a San Siro 2-0 2-0 sì, perché prima il gol di Bertolacci che hai dato tu in diretta e mentre parlavamo è arrivato il raddoppio di Costa, e allora ma perché staranno pensando alla vendita, si sono deconcentrati. Sì, forse la loro vendita dei singoli giocatori, ecco. Perché questo risultato la avvicina notevolmente, allora a me viene da pensare che magari ad Arcore, no? Dove c'è questo vertice tra Mr. B, no? Tra Taichi Abol e Berlusconi, mi andò a dire che magari il thailandese avrà detto, dice dai Silvio vediamoci un attimo la partita, brindiamo, stiamo insieme, allora, e Berlusconi magari ha detto, dice ma no guarda dai facciamoci un giro nel giardino, ti voglio far vedere queste piante, perché oggi insomma far vedere il Milan si deprezza. Speriamo che abbia fatto il giro nel giardino, qualche rosa, qualche pecunia. Facile che il thailandese ha chiesto lo sconto secondo me, vista sta partita. Tutto sommato effettivamente non si sono valorizzati diciamo stasera, comunque le partite devono ancora. E tra l'altro l'altra notizia del giorno è questo tentativo di alleanza tra Mediaset e Sky, no? Potrebbe scoppiare la grande pace e sarebbe un'altra rivoluzione copernicana. Brivi trattative quelli di Berlusconi in questi giorni, ho capito. Sì, sì. Grazie caro Dorici, noi ci sentiamo tra pochi istanti.